Fabrizio Intonti. Se voi siete lettori abituali delle interviste ai VIPs, e io devo dire sì, leggo un sacco di interviste ad attori, cantanti, musicisti, registi, anche quando sono un po' banali, un po' finte, mi rilassano molto. In particolare mi piace molto quel momento in cui gli chiedono: come hai fatto a entrare nel fantastico mondo dello spettacolo? E loro rispondono quelle cose tipo: ero andato a accompagnare una mia amica a un provino e hanno preso me. Oppure, guarda, camminavo per strada, un produttore mi ha notato. O delle cose tipo: quella sera in platea c'erano solo due persone, però uno dei due era un presentatore famosissimo. Ecco, mi piacciono quelle frasi lì, proprio eterne, da 30 anni le stesse. E mi dispiace un po' il fatto che tra poco probabilmente spariranno, perché saranno sostituite da cose tipo: mettevo dei video su YouTube, oppure avevo un blog molto seguito, oppure addirittura scrivevo degli status su Facebook così divertenti che mi hanno dato un programma in prima serata. Ecco, perché questo potrebbe succedere, e questo già succede nei sogni di molti: avere un blog, un sito di foto, di racconti, un account sui social network e tramite quello scalare le vette del mondo dello spettacolo e della cultura. Se vi è successo, se ci state lavorando, se internet vi ha cambiato la vita o vi ha dato semplicemente un lavoro, 800 24 00 24. Allora, questo è il provino per la Mediaset. Appunto, ho riuscito a rompere un pezzettino di Shakespeare. Essere o non essere, questo è il problema. Ecco, questo era il pezzettino. E spero gli sia piaciuto la Mediaset. Io tento, quindi vabbè, il pezzettino io ho fatto. Ciao, spero appunto che apprezzate, diciamo, ciò che sto facendo. Ecco, però sgombriamo subito il campo da una cosa: non stiamo parlando di questo. Questa è Gemma del Sud, una ragazza che impazza su YouTube cantando, ballando, con una mancanza di talento così palese e così sfacciata che qualcuno addirittura pensa che sia una geniale campagna di marketing o uno scherzo ben architettato. Non parliamo di questo. Salve a tutti, io sono Achille Corea, 9 minuti dopo le 4 del pomeriggio, questa è Radio 24 e questo è Giro di Vita, il programma che vi racconta storie di chi ha cambiato vita, di chi ha cambiato tutto e inventato un nuovo inizio. E per farlo noi cerchiamo persone che l'hanno fatto e l'hanno fatto bene, e per questo oggi sentiremo una persona che è riuscita a inventarsi un lavoro tramite internet. Bertroni, a parte Reni, mortacci, come stai? Che sta a fare? Sta a divertire, tutte queste stronzate. Partito Democratico, primarie, Dimmi, che ti serve, va? Dico, no, non mi faccio più i video, no, ho smesso col Grande Fratello, no, mi ero rotto, lasciato perdere, sono stufato. Devo ricominciare, no, se ne parla. E questo che sentite è l'intro di un popolare format internet che è diventato anche uno spazio in TV. È Tolleranza Zero di Diego Bianchi. Benvenuto, Diego. Buongiorno, grazie. Ciao Achille. Allora, Diego, noi ti abbiamo chiamato perché tu hai iniziato facendo un altro lavoro, che possiamo dire qual era il tuo lavoro fino a poco tempo fa. Ma io volevo dire che a me comunque, io accompagnavo un'amica su YouTube e sono stato notato da... Sei stato notato dai commentatori di YouTube. Dai commentatori di YouTube. No, il mio lavoro serio, paradossalmente, prima era comunque su internet. È stata la prima vera svolta, è stata quella, nel senso che io ero un professionista dello stage non retribuito, sai quelle cose dove lavori tanto e non vedi mai una lira, così. E nel fare queste cose... a un certo punto smanettavo comunque su internet per mio diletto, come si dice allora, producevo contenuti, finché poi mandai un curriculum all'unico portale romano per pigrizia, perché per gli altri stanno tutti a Milano, e siccome era un periodo, era il 2000, in cui si assumeva da quelle parti, fui assunto subito, quindi trovai un lavoro in piena estate su internet, e quello era il lavoro serio. Il dorato 99-2000 della New Economy, era, quando... fui assunto il 4 luglio del 2000, tipo nato il 4 luglio, fui assunto il 4 luglio. Dopodiché, passati otto anni, in realtà a un certo punto, nel produrre contenuti e nel avere la responsabilità dei contenuti di quel portale, ho cominciato a fare i video di cui insomma stai parlando, e il primo dei quali è quello di cui hai mandato qualche secondo prima. E niente, questi video, come si dice, sono diventati virali. Ora, il motivo però mi è sempre sfuggito, nel senso che non ho fatto nulla per farli diventare virali, non ho seguito le regole no, quelle devono durare pochi minuti, eccetera, eccetera. Anzi, di solito le ho infrante, però è andata bene lo stesso. Ecco, diciamolo per chi non lo sapesse, i tuoi video che all'inizio erano solo su YouTube e solo su il tuo sito, il tuo blog, dopo qualche tempo sono arrivati ad essere parte integrante del programma Parla con me con Serena Dandini, e i video non sono cambiati, cioè quello che tu facevi per YouTube lo fai più o meno allo stesso modo per internet. Vogliamo dire ad esempio quali sono, scusa, per la Rai, vogliamo dire quali sono i potenti mezzi con i quali realizzi i tuoi video? Dunque, i potenti mezzi sono adesso, diciamo, negli ultimi 3 anni un portatile Mac, che però è rimasto sempre lo stesso, quindi invecchia velocemente, una telecamerina di quelle proprio da così amatoriale, da prima comunione, insomma, nulla di particolarmente professionale ma funzionale, e un'altra telecamera ancora più piccola, che non è nulla di particolarmente così strano, non è una telecamera di quelle per fare video di nascosto, è semplicemente una roba piccola, si chiama la Flip, non so se posso dire questa cosa, comunque non me l'ho detta. E basta, è un programma molto uso, il programma più stupido che si può usare con il Mac adesso, e prima con il PC, insomma. Maestranze, attori famosi, personaggi coinvolti? La famiglia per lo più la famiglia, quello che spesso anche lo ammetto, insomma, ho fatto fare la voce fuori campo a mia figlia. Lavoro minorile. Sì, lo dico, lei è molto contenta di questo, chiaramente non l'ho mai ripresa, però insomma, oppure qualche amico ogni tanto, insomma, però nulla di più, niente di... Ah sì, c'è stata una comparsata nel penultimo video, che è stata quella di Valerio Mastandrea, ma quello è stato un video molto particolare, era relativo all'ultima giornata di campionato, ma... Sì, ma non era nemmeno in tema, diciamo, di solito, no, tu che di cosa parli di solito nei tuoi video? Io, diciamo, di politica, attualità, con un occhio particolarmente così rattristato e attento alle vicende del Partito Democratico, insomma, però non solo quelle, diciamo che quest'anno mi sono occupato anche di L'Aquila, insomma, ho cercato di variare un po', ecco, non vorrei fare video sul PD per tutta la vita. Sì, sì, diciamo che penso che abbiano capito tutti, insomma, qual è il tuo, diciamo, la tua tragica, diciamo... Sì, no, non c'è mistero in tutto ciò, ecco. Senti, e in quanti mesi sei arrivato dai video, dall'inizio di Tolleranza Zero su YouTube a Rai 3? Dunque, quel video che tu hai fatto sentire è datato, dunque, all'inizio del Partito Democratico delle primarie, cos'era, mi sa, ottobre 2000, adesso sto per fare una figuraccia, 2008 forse. 2008, sì. 2008, 2007, 2008 e niente, ho cominciato lì, adesso sono 56, mi sembra di averne fatti, e diciamo che il passaggio, insomma, che poi è quello di cui stiamo parlando, dal web alla TV è avvenuto nel momento in cui quei contenuti che io producevo comunque nel mio lavoro precedente non erano più così apprezzati, insomma, stavo in una situazione dove la nuova proprietà pensava che con internet fare dei contenuti interessanti, originali, che non portassero soldi subito, non fosse poi così importante. C'è stata simultaneamente, insomma, al tempo stesso la proposta della trasmissione di farli per loro, io ho detto, siccome non sono stato io ad andare da loro, ma loro venivano da me, io non avevo l'esigenza di diventare quello che va in televisione, ho detto sì, però continuo a farli con gli stessi strumenti di prima, con le stesse modalità, e continuo a metterli in rete anche in versione più estesa. E senti, con comunque Tolleranza Zero tu hai, diciamo, come dicevamo prima, infranto un po' di regole, quelle tipo, non so, siate brevi, parlate di quelle 2 o 3 cose che vanno, però insomma un'idea del perché funzionano te la sarai fatta? Sì, più o meno direi funzionano perché, insomma, pongo dubbi di buonsenso, diciamo domande di buonsenso abbastanza diffuse, già questa, quando si parla di politica, tu sai che non è una cosa così ovvia, così banale, quindi c'è proprio un problema di comunicazione, non mi invento nulla, non nulla di particolare, però ripeto, questa sembra una grande novità, e poi le cose che racconto spesso sono abbastanza rappresentative così, dei dubbi, del malcontento, delle ansie di buona parte del pubblico, ecco, insomma, scatta un processo di immedesimazione, di identificazione, diciamo. Dimmi una cosa, i primi segnali che stava funzionando, anche qualcosa di esterno al mondo internet? i primi segnali, beh, vabbè, quando diciamo la così proprio l'aneddoto spicciolo è stato quando ho fatto il video, che è uno di quelli poi che ha girato di più, del comizio di Veltroni a Piazza del Popolo per la chiusura della sua campagna elettorale, quando sotto al palco c'erano Virzì e l'Archibugi che mi hanno salutato come noi siamo tuoi grandi fan. C'era Virzì che aveva appena fatto il film in mega promozione, mi ha preso la telecamera e mi riprendeva mentre io stavo sotto Veltroni. Tra l'altro l'Archibugi non l'ho neanche riconosciuta, l'ho capito quando sono tornato a casa che si trattava dell'Archibugi. Lì ho capito che insomma c'era un'attenzione che superava il web. Ecco, ti facciamo un'ultima domanda che per noi è rituale, la facciamo a tutti uguale. La valigia e la zavorra. Diego Bianchi in arte Zoro, che cosa bisogna portarsi dietro cambiando vita? Allora, per quanto riguarda la, se ho capito bene il senso di questa vostra rubrica, speriamo di sì, dopo. Vediamo, pure se non l'ho capito, vabbè, chi se ne frega. Come la valigia, diciamo, i miei strumenti di base, che poi sono quelli che abbiamo elencato prima, direi proprio dovendo scegliere uno, la telecamerina, insomma, che è quella che mi ha accompagnato in questo percorso, in questo cammino, direi pure le musiche, che è una cosa che insomma mi pregio di mettere personalmente nei video che faccio e sono, insomma, ci tengo particolarmente. Per quanto riguarda la zavorra, che è un po' insomma la parte, diciamo, non dico sfigata, ma insomma un po' complicata della vicenda, direi sicuramente la partita IVA, che è quella che mi sono dovuto aprire nel momento in cui lasciavo il lavoro di prima, perché insomma il lavoro di prima aveva dei problemi, nel senso dovevi andare in ufficio tutti i giorni, fare il impiegato in sostanza, però da quel punto di vista ci pensavano altri, invece la partita IVA ha tutta una serie di procedure, complicazioni, vabbè, di complicazioni per le quali hai beccato la radio portato. Giusta tra l'altro, lo sapranno meglio di noi. Grazie Diego, diamo il tuo sito diegobianchi.com, ma se no basta cercare Zoro su YouTube e ti trovano video su video su video. Questo cambio di vita è sconsigliato se il vostro ispirato blog di poesie riceve commenti solo da mamma. Tra gli amici su MySpace avete Stadio Olimpico e Olimpico Stadio. Pensate che Twitter sia l'uccellino di Gatto Silvestro? Pensate che bastino 1000 amici su Facebook per essere eletto in Parlamento? Ritenete YouTube il posto ideale per il vostro lungometraggio Diario intimo di un nano da giardino? Eh sì, parliamo di internet, tutti sanno di internet, c'hanno un'idea per fare i soldi con internet, e mio nipote lavora su internet, e oggi che ci vuole con internet, e uno che ha fatto un sito internet ha fatto un sacco di soldi. 800240024, chiamateci se con internet avete cambiato vita, avete ottenuto qualcosa, avete espresso una vostra potenzialità, o se ci state provando. Intanto noi ne parliamo con un altro ospite. E se lo facessi io? Perché noi abbiamo bisogno a giro di vita anche di sentire qualche osservatore esterno ed esperto, e allora abbiamo chiamato Luca De Biase, che è caporedattore di Nova 24, inserto dedicato all'innovazione del quotidiano Il Sole 24 Ore. Benvenuto Luca. Ciao, grazie. Beh, non mi fate fare l'esperto, se già tanto faccio il giornalista di questi tempi. Beh, ma insomma il termine esperto non si nega gente che ne sa, non si nega gente che ne sa molto meno di te, quindi dai. Allora, noi abbiamo sentito Zoro, che rappresenta Diego alias Zoro, uno dei primi casi, se non il primo, in internet, di una persona che riesce a creare un prodotto che passa dal web ai vecchi media, cioè praticamente sostituisce la gavetta che si faceva una volta nei locali, nelle radio locali, nei TV locali, con internet. È un percorso che secondo te è destinato ad aumentare col tempo? Guarda, io ho sentito la presentazione che hai fatto giusto prima dello stacco, e avrai detto 20 volte internet, e te ne sono grato, perché bisogna consumare questa parola e accorgersi che tutto sommato in prospettiva non ne parleremo più, come non parliamo un granché del telefono, della posta come veicolo per trovare lavoro, è uno strumento, eccetera eccetera. Detto questo, in questa fase di grande trasformazione, indubbiamente internet ha a che fare con le opportunità. Vediamo che essenzialmente, tirate le somme, la gente deve avere una capacità e trovare il modo di valorizzarla. Questo avviene e avviene molto spesso usando intelligentemente internet. Zoro è un caso ovviamente molto particolare, ma ci sono in Italia decine di migliaia di persone che hanno un'attività, chiamiamola così, possibile solo perché c'è internet. Basta pensare a quelli che vendono e comprano cose con eBay. Avevamo raccontato su Nova di questo ragazzo che, usando un design vintage, fa fabbricare da suoi partner in Cina delle poltrone, le vende in tutto il mondo, non si sposta da Milano e funziona solo via internet. Ecco, no, è giusto anche parlare, diciamo, di questioni più professionali, anche più commerciali, ma tornando un attimo al diciamo mondo dello spettacolo, se vogliamo, ai media, siamo in una fase in cui uno comunque usa internet e poi però per farne mestiere va in radio, in televisione e sui giornali. Secondo te è vicina o comunque possibile in Italia a breve la fase in cui uno può fare show e viverne solo tramite il web? Ma di questo dobbiamo parlare quando si sarà capito come si, virgolette, monetizza internet, l'attività di informazione di show con internet. No, per adesso noi abbiamo visto, e appunto Zoro è un caso, internet soprattutto come strumento di marketing, farsi conoscere, farsi scoprire, fare la gavetta e quindi non farci molti soldi direttamente con internet. E dopo la relazione con i mondi nei quali girano effettivamente dei soldi, per quanto riguarda lo spettacolo e l'informazione, che produce un'attività professionale soddisfacente. Ecco, tu, mi sono riletto l'altra volta un pezzo del tuo libro che si chiama L'economia della felicità, in cui riportavi una provocazione, una domanda a Chris Anderson: se Beethoven oggi sarebbe diventato famoso, e lui diceva sì, però doveva mettere i video su YouTube. Sì, doveva farsi avrebbe cominciato in un piano bar, poi qualcuno gli avrebbe consigliato di fare di andare su MySpace, allora era MySpace il posto per i musicisti dove farsi conoscere, e poi qualcuno gli avrebbe suggerito di fare un disco, glielo avrebbe finanziato e sarebbe andato in questa maniera. Il mio problema in quel caso era un pochino diverso, nel senso che tutto sommato noi adesso abbiamo la concezione che Beethoven è l'artista assoluto, il musicista universale, e il che è una questione che va un po' oltre il successo commerciale. Ecco, adesso invece col mercato bisogna fare per forza i conti. Ringrazio Luca De Biase da Nova 24 e noi andiamo avanti. In Italia esiste ancora un 10% di persone sfigate che si ostinano ad avere delle opinioni proprie. Oggi però la risposta all'attività cerebrale scomodamente eccessiva e superflua ce l'abbiamo noi. Ed è basta. Questo che sentite è Will Woosh, un ragazzo che in realtà si chiama Guglielmo Scilla e che fa dei video su YouTube che fanno 700-800.000 visitatori, che con una parodia di Twilight ha superato il milione di visualizzazioni su YouTube e adesso sta iniziando una carriera d'attore grazie, credo, anche e soprattutto a tutte queste visite. 800240024, Andrea, pronto? Pronto, sì, pronto, ciao. Hai trovato lavoro con internet? Io ho trovato lavoro con internet nel 2006. Che cosa fai? Allora, io sono un produttore di quelli che si chiamano loop and samples, suoni per musicisti, in poche parole. E loop, cioè tu fai dei suoni per altri musicisti? Esattamente, cioè il mio cliente praticamente sono musicisti che producono musica per film o per pubblicità, quindi io non creo musica ma creo la materia prima per loro, suoni di pianoforte, di chitarra, di batteria, che poi vengono suonati con la tastiera e utilizzati col computer. E questa cosa si fa tramite internet? Senza internet non la potresti fare? Allora, io praticamente la produzione la faccio in studio, però la vendita la faccio solo ed esclusivamente su internet in tutto il mondo. Dammi un'idea di quanta roba vendi in Italia e quanta roba vendi nel resto del mondo. In Italia pochissimo, un 5%, il 95% è distribuito negli Stati Uniti, Germania, e poi Francia e così via. E scusa, prima di internet cosa facevi? Io prima di internet collaboravo con delle aziende che costruiscono tastiere elettroniche, anche italiane, e producevo dei suoni per loro, oppure delle basi musicali che servivano per le loro tastiere. E poi mostravo in giro delle tastiere nuove che producevano. Quindi sei passato da consumare le scarpe per mostrare delle cose fisiche a farle sentire online? Esattamente, sì. Ma più che altro in un momento di esigenza dove il lavoro è venuto a mancare, quello con le aziende, allora a quel punto mi sono trovato in difficoltà. Da tempo pensavo di aprire un sito, ci ho provato, però voglio anche sottolineare il fatto che non è che uno apre il sito come se aprisse un negozio, entra la gente e... Questo sì, dimmi una cosa, quanto ci hai messo? Da quando hai aperto il sito ai riscontri? Quanto tempo è passato? Ma i riscontri fortunatamente subito, però ripeto, c'è da dire che ho fatto un grosso studio di marketing prima di aprire il sito, ed è là tutto il trucco, cioè le strategie di marketing, essere sempre presente nei forum, con i video su YouTube di promozione. Insomma è un lavoro, ti ringrazio Andrea, vorrei sentire Pietro prima di chiudere, pronto? Sì, pronto, mi senti adesso? Sì, l'altro sì. No, no, eccoci, sei in onda Pietro, sei in diretta, ecco. Benissimo. Cosa fai nella vita? Beh, io sono psicologo, psicoterapeuta, mi occupo di arte e di salute, anche se sembrano lontane le cose sono vicine. E ho cambiato vita proprio un po' quando ho realizzato una formula su un blog per quanto riguarda un articolo in particolare che sta raccogliendo centinaia e centinaia di visite tutti i giorni con la richiesta di consulenzialità specifiche. In sintesi, di cosa ti occupi? Di qual è la cosa particolare? È particolare questo articolo sulle dinamiche di coppia a sfondo narcisistico, e c'è una vera e propria epidemia di questo narcisismo che va a influenzare negativamente in modo molto cattivo, insomma, queste dinamiche. Con che chiave di ricerca, scusa, così ti trovano i nostri ascoltatori, con che chiave di ricerca arrivano sul tuo? Nella mia associazione culturale, le chiavi, tu vuoi sapere più che il titolo? Per saperlo, così ti cerchiamo, sì, titolo. Narcisismo, trauma da narcisismo, perché veramente un'etichetta che insomma ho scoperto io, che adesso è in corso di pubblicazione su varie riviste eccetera, ma comunque ti cerchiamo così perché siamo alla fine, però Pietro ti cerchiamo, trauma da narcisismo, io ci vado subito, guarda, ve lo dico appena finisco. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Giro di Vita perché Alessandro Chiappini mi mette sotto questa sigletta, il che vuol dire che ce ne dobbiamo andare. Io spero che qualcuno di voi si sia sentito stimolato e che magari un giorno diventerà famoso grazie a internet, e mi raccomando, quando farete un'intervista, ditelo: è cominciato tutto ascoltando Achille Corea su Radio 24. Ci tengo. Se avete una seconda vita o la state inseguendo, raccontatela alla nostra segreteria 828 1111.